E ora andiamo a fare una nuova gita. Andiamo a vedere le case piegate dalla pioggia. Andiamo a vedere gli uomini strani, vestiti a macchie rosse, stesi sul selciato. Non perdiamo tempo, ma dimmelo tu, se può bastare questa insana ipocrisia per farmi arrivare vivo fino a domani, brindando alla vita e al successo della mia monotonia, mentre tutto rimane fuori. Ho voglia di vagare per le strade, schivare i colpi dei cecchini pronti a sparare, quasi per gioco, e poi voltarsi indietro a guardare chi è steso a terra e chi fugge lontano, saltando i fossati. Ma dimmelo tu, può bastare questa insana ipocrisia per farmi arrivare vivo fino a domani, mangiando popcorn e ingrassando davanti alla TV, mentre tutto rimane fuori. Io sono chi ti ucciderà, la tua brama di cambiare la realtà. Io sono chi che molto fermerà il tuo orgoglio e la tua volontà.